va soppressa la sua. No, non rida, insomma, i gioielli di famiglia vanno tenuti un po' al calduccio. Assolutamente sì. Ah, no, no, da mia sorella, dice, la vuoi improverare tua madre? Nelle chiappe. Non è Sant'Antonio da Padova. No, io sono Gianni. La cagarella degli esami. Eccola là. Certo, e metto le mani lì. No, anch'io lo faccio. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tormentone musicale degli ultimi mesi ci sembrava la colonna sonora ideale per iniziare questa trasmissione, che è l'ultima di questa stagione di Cuore e Denari, diciamo, per quello che riguarda la diretta. Nelle prossime due settimane vi faremo compagnia con il meglio di tutto ciò che è andato in onda negli ultimi mesi, e poi ritorniamo in diretta il 25 agosto. Ma io lo so già, vi vedo già tutti belli lì spaparanzati sotto il soleone a bruciarvi come lucertole, a godervi queste finalmente belle giornate d'agosto, dopo un luglio da dimenticare che ha mandato davvero a male le ferie di molti. Ma so anche che molti di voi avranno approfittato del tempo a loro disposizione per leggere tutto quello che non sono riusciti a leggere nei mesi invernali, presi, come lo siamo tutti, dalla frenesia della quotidianità, del lavoro, della famiglia. Non so voi, ma io ho un sacco di libri sul comodino e leggo sempre molto meno di quello che vorrei. Ecco allora che in estate cerchiamo di recuperare il tempo perso. So che molti di voi sono dei grandi appassionati di Cuore e Denari, e io e Nicoletta ve ne siamo davvero molto riconoscenti, perché i soldi e la salute sono i due motori della nostra esistenza. Però dobbiamo rapportarci responsabilmente con questi due aspetti così importanti della nostra vita. E allora perché non dedicare nelle prossime settimane un po' di tempo a qualche lettura sui temi preferiti di Cuore e Denari? Spesso con Nicoletta Carbone scherziamo sull'apertura della nostra libreria, la libreria della nostra trasmissione, ed ecco che oggi non solo la apro, ma interpello anche gli autori dei libri che vi suggeriamo di portare in vacanza con voi. Abbiamo libri di cuore e libri di denari. Prima di alzare il sipario su libri e scrittori, però, io vorrei sentire anche i vostri suggerimenti, e vedo che già vi siete scatenati al 349-238-6666. Allora, avete deciso di documentarvi prossimamente sulle questioni finanziarie, delle quali parliamo con frequenza, e con quale libro? Oppure avete deciso che è ora di cambiare stile di vita e rimettervi in forma con i nostri consigli alimentari, con una maggiore attenzione alla prevenzione, a pensare un po' anche alle dinamiche all'interno della vostra famiglia, perché magari è arrivato un bebè da poco e qualcosa si è modificato? 800 24 00 24, rimaniamo qua in attesa dei vostri spunti, ma naturalmente se volete potete interagire anche con i nostri ospiti. Vi vado a presentare subito il primo, con un brano tratto dal suo libro. Si abusa tanto della parola visionario. Quante volte uomini di finanza stranoti, economisti di grido, pronunciano le fatidiche parole: ah, ma io l'avevo detto. Ecco, Émile Zola, umile romanziere, lui che non teneva neanche i soldi in banca, i guadagni li custodiva il suo editore, meglio così, aveva previsto davvero tante cose sul mondo della finanza con quel suo libro Il Denaro, uscito nel lontano 1891. Lui sì che era un visionario. Il Denaro è la storia di Aristide Saccar e di un'enorme spettacolare speculazione finanziaria da lui ideata nella Parigi del Secondo Impero, strabordante di progetti, di soldi, di corse in avanti. E buongiorno e benvenuto a Leonardo Martinelli, autore di Quasi un romanzo, l'economia raccontata a chi non la capisce. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. E ben ritrovato intanto. Sì. Io ti ospito con grande piacere, adesso svelo qualcuno dei nostri misteri del passato, perché io e Leonardo Martinelli ci conosciamo da un bel po' di anni, almeno dal 2001. Io voglio raccontare un po' l'esperienza che abbiamo condiviso. Io lavoravo a 24 ore TV, Leonardo era inviato del Sole 24 ore a Tokyo e abbiamo fatto tante levatacce, anzi io facevo le levatacce e lui era in io collegamento, no. Esatto, in orari un po' più decenti, ma insomma dopo Tokyo, esperienze professionali a Montevideo, molta America Latina, qualche anno a Parigi, ora finalmente ce lo siamo riportato in Italia. Adesso è caporedattore del sito First Online e conduttore di un programma di successo su Radio 3 Rai, Come un romanzo, breve storia del denaro, in onda il sabato e la domenica proprio su Radio 3 alle 10.50. Giusto? Ho detto tutti gli orari, sì, correttamente? Sì, sì, anzi grazie di questa promozione. No, figurati. L'importante... Per un'altra radio, tra l'altro. No, l'importante è che tu non sia in controprogrammazione con Cuore Denari, per cui per questo motivo l'ho detto. No, ma non ci sono mai stato, sinceramente. Da qui il nome del libro, no? Proprio della tua fortunata trasmissione radiofonica. Sì, perché l'idea in realtà è nata prima per un programma radiofonico, in quell'estate terribile del 2011, quando si cominciò a parlare di spread, quando si cominciò a parlare di un possibile default dell'Italia, insomma di termini che non tutti conoscono, e quindi appunto venne l'idea di spiegare quei termini a un pubblico a digiuno di economia, ma indorando un po' la pillola, ricorrendo anche alla letteratura e al cinema. Esatto, adesso magari proprio attraverso l'esempio di qualche capitolo spiegheremo meglio che tipo di ricerche hai fatto ai nostri ascoltatori. Ma Leonardo, la materia finanziaria, le vicende di cronaca economica internazionale hanno dato molti spunti a molti scrittori, economisti e giornalisti in questi anni, proprio per scrivere e ricostruire la dinamica della crisi, per scrivere di risparmio, borsa, azioni e obbligazioni. Tu appunto ce l'anticipavi, hai voluto dare questo taglio assolutamente originale alla ricostruzione delle vicende degli ultimi anni. Partendo dal brano che abbiamo tratto, appunto, ci vuoi raccontare che ricerche hai fatto? Ma diciamo che appunto ci sono messo alla ricerca di romanzi, di film che non solo parlassero direttamente di economia e finanza, anzi certe volte ho preferito dei testi o dei lungometraggi che trattassero dell'economia e finanza solo in maniera indiretta. Devo dirti che una delle sorprese più importanti in questa ricerca è aver trovato poi proprio dei visionari, no? Si diceva prima anche nel brano che è stato letto, cioè degli scrittori o dei registi che hanno saputo capire l'economia o la finanza molto meglio degli economisti e degli uomini di finanza. Ecco, questa è stata, diciamo, la scoperta più piacevole che ho fatto. Certo, ma la letteratura e il cinema secondo te riescono a spiegarci l'economia? Ma nel caso ad esempio di Zola in una maniera incredibile, cioè un libro di fine Ottocento che già descrive un truffatore che assomiglia tantissimo a truffatori degli ultimi anni, tipo Bernard Madoff. Sì. Poi il denaro, appunto il libro di Zola, che ti descrive proprio le procedure alle quali questo truffatore ricorreva, che sono simili a quelle poi utilizzate proprio da Madoff pochi anni fa. Sicuramente questo legame c'è, e poi uno scrittore, un regista hanno, diciamo, la possibilità di osservare questo mondo dall'esterno. Questo certe volte fa veramente bene, fa bene a tutti, anche a chi vive di economia. In questo libro concetti come lo spread, il credit crunch, i derivati vengono decifrati appunto facendo ricorso a romanzi e film. Si va dai grandi classici di fine Ottocento a lungometraggi degli ultimi anni. Allora, a questo proposito vi faccio ascoltare un secondo estratto dal libro di Leonardo Martinelli, a cui leghiamo un bel quizzone oggi, perché sono sempre delle iniziative, Leonardo, che piacciono moltissimo ai nostri ascoltatori, per cui li vogliamo un po' così attirare anche oggi con questa modalità. È un brano che racconta di una città che fa da scenario ad un romanzo di Dickens, e noi vogliamo proprio sapere da parte vostra il titolo di questo romanzo. Ascoltate il brano e poi chiamate o scriveteci, chiamate all'800240024, scriveteci al 349-238-6666, poi valutiamo che cosa regalarvi, magari proprio o il libro di Leonardo Martinelli, se ne recuperiamo un'altra copia, oppure sicuramente apriamo la libreria di Cuore Denari. Sentite. C'era una volta una città, cupa, puzzolente, triste. Si chiamava Cooktown, la città del carbone. Cooktown era una successione ininterrotta di fabbriche e gli stantuffi delle macchine a vapore si alzavano e si abbassavano. I vetri delle finestre ballavano tutto il tempo, tintinnavano e tremavano. A Cooktown si svolge la vicenda di Charles Dickens, pubblicato nel 1854, una saga ad altri tempi, cronache agli albori della seconda rivoluzione industriale. Adesso lasciamo scatenare gli ascoltatori che cercheranno di ricordarsi qual è il titolo del romanzo di Dickens che si svolge a Cooktown, ma utilizzando questo romanzo, Leonardo, quali sono i termini che hai voluto spiegare e decifrare? I termini dell'economia. Sì, in realtà ho spiegato tutto quello che ruota intorno al PIL, ho cercato del prodotto interno lordo, ma ho cercato soprattutto di fare un po' il punto su tutte le polemiche che ci sono sull'affidabilità del PIL, se veramente il PIL nudo e crudo può rispecchiare il livello, diciamo, di progresso economico. Ecco, proprio in questi giorni è un tema, diciamo, azzeccatissimo, certo. No? Perché sai tutta la polemica che c'è stata, questa nuova caduta del prodotto interno lordo del secondo trimestre italiano. No, avete fatto una scelta un po' cattivella, perché non è un libro facile questo. Vabbè, d'altronde è un libro, l'hai già detto tu, un libro di Dickens, ma non è il più noto, infatti anche se è un libro secondo me molto bello. Ma guarda che i nostri ascoltatori sono sempre capaci assolutamente di stupirci in ogni puntata, devo dirti la verità. Allora, un bel capitolo chiaramente dedicato anche in questo caso, neanche a dirlo, poi la situazione proprio nelle ultime settimane è riesplosa di nuovo, alle vicende argentine, Leonardo. Sì, un capitolo dedicato all'Argentina. In quel caso io ho fatto ricorso a un film argentino che si intitola Nove Regine, il regista è Fabian Bielischi, in realtà tra l'altro Bielischi è morto pochi anni fa, molto giovane. Questo film uscì nel 2000, proprio l'anno precedente il primo grande, non fu il primo, insomma il grande default argentino proprio del 2001. È un film secondo me molto bello, la storia di due piccoli truffatori che vagano nell'arco di una giornata in quello che a Buenos Aires si chiama il microcentro, che è proprio il supercentro, la parte più centrale della città, e è un reticolo di stradine dove appunto c'è questa fauna che vaga tra bar, ristoranti, uffici, tante persone che hanno il loro ufficio proprio in un bar come protagonisti di questo film. Secondo me è un film che dà molto l'idea di quella effervescenza anche un po' illusoria che si respirava a Buenos Aires proprio prima di quel default, e che è un po' quella anche che si è respirata negli ultimi anni. Io sono stato non molto tempo fa a Buenos Aires e l'Argentina ha ricominciato a correre ed è caduta poi negli stessi eccessi, negli stessi problemi di sì, tempo. Certo, anche se in realtà poi quest'ultimo, come abbiamo raccontato più volte, default selettivo o tecnico, è stato determinato dal fatto che il denaro che si rende necessario per pagare gli interessi su dei bond a scadenza è congelato in America per tutta una serie appunto di conflittualità tra il governo e alcuni fondi di investimento speculativi, cosiddetti hedge fund. Chiusa la parentesi sull'Argentina, come ti anticipavo, gli ascoltatori sono sempre capaci di stupirci e in molti stanno indovinando il titolo del romanzo di esatto, e non solo, ti dico anche che ce lo stanno dando in inglese, per cui sono davvero avanti gli amici di E Cuore e Denari. Adesso teniamo ancora un po' il mistero sul libro, poi sentiamo appunto, peraltro è un'ascoltatrice se non sbaglio, la prima che si è aggiudicata appunto questo, che è riuscita appunto ad indovinare il titolo del libro. Adesso però direi di sentire altri ascoltatori, anzi eccola qua, Giulia da Brescia, buongiorno. Giulia. Sì, eccoci. Allora il titolo del libro è Hard Times. E quindi Tempi Difficili. Tempi Difficili di Charles Dickens appunto. Lo aveva letto Giulia? Sì, l'avevo letto. Benissimo, perfetto. Senta, che cosa si porta in questi giorni? Adesso io non so se lei andrà in vacanza, ma quantomeno a quali letture si dedicherà nelle prossime settimane? Letture di cuore o di denari? Proprio ieri ho finito di leggere di Virginia Woolf dei racconti, uno dei quali è Solid Objects, e l'altro è Latin and Latinova. Quindi tutto in inglese? Sì, in inglese. Brava Giulia. Virginia Woolf, che adoriamo anche noi, anche se non so se abbia scritto di denari, però magari adesso Leonardo Martinelli andrà anche alla ricerca della letteratura della Woolf. Giulia, grazie e complimenti. Adesso vediamo di aprire grazie la nostra libreria, ma devo dire che le avevano fatto compagnia anche Giuseppe e poi Alberto da Mirandola, Marco da Bologna, Carmen, insomma in tantissime avevano indovinato e questo ci fa molto piacere. Andiamo invece agli altri ascoltatori e sentiamo un po' che cosa leggeranno nelle prossime settimane, in quali letture si cimenteranno. Giovanna da Genova. Buongiorno. Una lettrice accanita, lei si definisce così? Sì, perché leggo moltissimo, leggo dai 4 ai 5 libri ogni mese e libri abbastanza spessi, come di Larson, ho letto Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fumo, La regina dei castelli di carta. Sì, tutti libri, una saga di grande successo degli ultimi anni, sì. E poi Ken Follett, tutti. Nessun libro su temi finanziari economici, non le piace? No, nessun libro su temi finanziari economici. Comunque volevo dire questo, io sono in campagna, sì, e non avendo la possibilità di prendere questi libri in biblioteca perché costano troppo, io quindi mi sono guardata sul mio tablet e ho preso un libro da ebook. Sì. Un libro che ho trovato molto molto interessante, si intitola Colomba Nera. E che cosa? L'autore di Riccardo Montagnani e parla di, è ambientato nel 1500 ed è un amore molto delicato tra un ragazzo ed una ragazza di religione islamica. Giovanna, comunque complimenti soprattutto per i suoi ritmi, perché 4-5 libri al mese veramente è un, come dire, un obiettivo per quello che mi riguarda inavvicinabile, perché io non ce la faccio, d'altronde facendo anche altri lavori in cui è Leonardo, leggiamo giornali dalla mattina alla sera. Beh, però tu hai dovuto in realtà, come hai condotto le tue ricerche per arrivare a riscontrare che per esempio nella cinematografia giapponese c'era appunto un film che faceva il caso tuo da poter riportare come testimonianza nel tuo libro? Perché le ricerche, io so, immagino avrai degli autori che ti aiutano anche nella preparazione del tuo programma per Radio Rai 3, però insomma un lavorone. Ma neanche tantissimo, è la verità. No, io devo dirti che ho fatto molte ricerche personalmente, poi mi sono letto i romanzi che non avevo letto, ne ho letto una parte. Diciamo che ho utilizzato varie strade, innanzitutto vabbè, uno va anche su internet e fa delle ricerche su internet, poi ho degli amici, alcuni appassionati di cinema, certo, alcuni che proprio lavorano nel mondo del cinema, io vivo ora a Roma, sì, e quindi loro mi hanno aiutato tantissimo per tutto quello che riguarda il cinema, per la letteratura anche tutta una serie di amici appassionati di letteratura che ogni volta mi mandano delle indicazioni, è diventato anche quasi un... No, poi dopo blog, quando, stranamente, quando si inizia una ricerca sono proprio le informazioni che ti cercano, vero? Ti vengono addosso, in qualche maniera si scatena questo fenomeno per cui ti vengono incontro. Senti, visto che prima ci hai accusato di aver scelto il romanzo più difficile di tutto il libro, adesso allora raccontaci perché hai messo anche, ma qua ce lo possiamo immaginare perché le storie le conosciamo, Mary Poppins e Pinocchio. Sì, Mary Poppins l'ho utilizzata per spiegare l'Unione Bancaria Europea, perché uno degli obiettivi di questo progetto è evitare la corsa agli sportelli, cioè il fatto appunto che ci siano questi eccessi di panico per cui i correntisti di una banca vanno appunto allo sportello e chiedono i loro soldi, chiedono di svuotare il proprio conto, e tutti si ricorderanno la scena del film prodotto da Walt Disney dove proprio c'è questa corsa agli sportelli quando i due bambini vanno a trovare il padre, che è proprio Mr. Banks, alla banca. Tra l'altro l'estratto del film, quella parte del film proprio è stata inventata da Walt Disney, dal regista e anche dal regista del film, perché l'autrice Pamela Lyndon Travers non l'aveva messo nel libro. Poi mi dicevi di Pinocchio, devo dirti che Pinocchio l'ho trovato, cioè io l'ho utilizzato per parlare di certe derive, di certi eccessi della finanza e anche dei famelici derivati, e in questo caso mi ricordo benissimo di aver messo semplicemente su Google derivati tipo libro, romanzo, l'ho messo in varie lingue e sono venuti fuori un sacco di link a blog, di, soprattutto in inglese, dove appunto molti utilizzavano Pinocchio e in particolare l'episodio del gatto e della volpe, del campo dei miracoli, dove i zecchini si devono riprodurre miracolosamente proprio per riferirsi ai derivati e a tutti i problemi che hanno portato con la crisi del derivato. Alla crisi recente, certo. No, che peraltro si sta anche replicando su certi strumenti finanziari negli Stati Uniti, ed è anche un tema che abbiamo affrontato nei giorni scorsi, abbiamo invitato anche a fare attenzione a tutto questo, anche se quantomeno i nuovi prodotti finanziari sofisticati non sono finiti nei portafogli dei risparmiatori. Se hai un minuto di pazienza, Leonardo, io ti faccio sentire un brano tratto dal prossimo libro che voglio presentare, dopodiché ti presenterò anche l'autore di questo volume, perché ci piace fare questo match questa mattina. Allora sentiamo il prossimo testo. Money, money, money. Soldi, soldi, soldi. Ne parliamo spesso, ce ne preoccupiamo anche quando ne abbiamo tanti, ma sappiamo veramente da dove vengono? Come funzionano? Sono un presidente di banca, ma non ho mica tanto chiaro come nasce il denaro. Come spesso accade, però, le cose sono semplici e complesse allo stesso tempo. Le monete che si stampano alla zecca sono solo una piccola parte di quelle che possediamo, il 3% circa. Le altre monete non sono fisiche, ma scritte in contabilità, e si creano attraverso l'intervento delle banche quando concedono un prestito. Si parla, in questo caso, di moneta commerciale. Il libro è Il valore dei soldi, banche, finanza ed etica, oltre il mito della crescita, di Ugo Biggeri, che salutiamo. Buongiorno, presidente di Banca Buongiorno. Etica. Benvenuto. Buongiorno. Io sto rovinando un po' le vacanze a tutti in questi giorni, ma sono certa anche che per far conoscere i vostri libri siate, almeno lo spero, volentieri qui con noi questa mattina. Sa perché ho voluto fare subito questo match con Martinelli? Perché so che anche lei nel suo libro ha tratto spunto dalle vicende di Mary Poppins. Sì, in realtà c'è una parte di Mary Poppins in cui c'è l'invito a risparmiare, di metterli nella banca, che appunto è garanzia di sicurezza, cioè di tenere il denaro al sicuro. Allora mi sono ricordato l'episodio e l'ho messo dentro. E infatti, allora, tra l'altro, adesso giusto per correttezza ricordo che il libro di Leonardo Martinelli, Quasi un romanzo, è edito da Longanesi, per chi lo volesse ricercare in libreria in questi giorni, mentre quello di Ugo Biggeri è edito appunto dalle Edizioni San Paolo. Biggeri, il suo libro può essere considerato un po' uno strumento di educazione finanziaria per capire le questioni fondamentali in tema di banche, finanza ed economia, ma faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto a Martinelli prima, che ci ha raccontato un po' l'approccio assolutamente originale che ha adottato per spiegare in termini semplici e inediti un po' questi concetti. Anche lei lo ha fatto, e che, con che approccio ha voluto appunto così argomentare un po' su questi temi a beneficio dei lettori? Ma l'approccio è stato quello di cercare di renderli semplici e, se possibile, anche divertenti, inserendo un po' di box all'interno del libro, perché credo che uno dei problemi che abbiamo oggi con la finanza è che è distante dalle persone, nonostante la finanza governi il mondo e quindi ovviamente non possa che essere altrettanto avvincente che una soap opera. Però è un romanzo che non sappiamo leggere, ecco, e quindi non capiamo, non riusciamo ad interpretare i segni, saltiamo regolarmente le pagine finanziarie perché oggettivamente sono molto spesso noiose, e credo ci sia bisogno invece, come fate anche voi con il vostro programma, di rendere la finanza più vicina alle persone e farle quindi decidere, ecco, perché noi vediamo la finanza come un servizio, come un qualcosa di cui abbiamo bisogno. In realtà è qualcosa di più, perché è il motore dell'economia. È il motore che guida ogni nostra scelta, direi, perché ogni nostra scelta quotidiana in realtà ha un effetto o comunque un presupposto di carattere economico. Cuore e denari. Finanza etica suona come un ossimoro, quasi una truffa. Nell'immaginario collettivo, finanza ed etica non vanno molto d'accordo, e non solo nel nostro paese. Secondo le rilevazioni demoscopiche di Ilvo Diamanti, le banche sono stabilmente al terzultimo posto tra le istituzioni di cui gli italiani hanno fiducia, guadagnandosi l'apprezzamento solo di un misero 15% degli intervistati. Nel sentire comune, quindi, fare banca, e più in generale finanza, mal si concilia non solo con l'attenzione a temi etici di interesse collettivo, ma addirittura con l'onestà e il rispetto delle regole. Ugo Biggeri, autore del Valore dei Soldi, presidente di Banca Etica, la vostra attività è molto cresciuta negli ultimi anni, anche se naturalmente ancora c'è qualche, tra virgolette, sospetto che così un po' condiziona l'atteggiamento di chi vorrebbe approcciarsi a Banca Etica, ma magari non capisce molto come possa avere un atteggiamento etico una banca. È ancora questo il pregiudizio che vi circonda, oppure in qualche maniera l'atteggiamento attorno a voi è cambiato? Ma no, sicuramente è cambiato. Oggi dopo 15 anni la finanza etica ha dimostrato di poter coniugare l'attenzione alle conseguenze sociali e ambientali degli investimenti che va a fare e un grado di efficienza, di attenzione, anche di rendimento che sono paragonabili a quelli delle altre banche. E tant'è vero che oggi, magari più nei confronti del terzo settore, più che in generale dell'uso responsabile del denaro, però anche tante altre banche cominciano ad avere prodotti o ad avere attenzioni di trasparenza rispetto all'uso del denaro. Senta, andiamo a dare qualche indicazione pratica ai nostri ascoltatori, perché sono quelle che apprezzano sempre di più. Ci siamo lasciati prima della pausa sollevando di nuovo la questione dell'atteggiamento che molti hanno nei confronti del tema finanziario ed economico. La considerano la finanza una materia indigesta, noiosa, e invece ogni scelta che facciamo ha una conseguenza di carattere economico o un presupposto di carattere economico, anche se noi non ce ne accorgiamo. Come facciamo a rendere la materia finanziaria di nostro interesse, se non lo abbiamo, ad aumentare la nostra consapevolezza sull'importanza della conoscenza delle principali questioni economiche che riguardano, oltre a tutto ciò che ci circonda, ma riguardano la nostra famiglia e la nostra vita? Presidente Biggeri. Ma sì, appunto, soprattutto cominciando a farsi le domande sui soldi. Sembra una cosa scontata, ne parliamo in continuazione, magari che ci capita di svegliarci preoccupati dell'uso che ne facciamo, del fatto che non li abbiamo. Però in realtà non abbiamo molto chiaro come funzionano, quindi paradossalmente ci aspettiamo la truffa sempre, ci aspettiamo soltanto un ragionamento che abbia a che fare con i rendimenti, invece i soldi possono essere molto di più o anche, perché no, molto di meno, nel senso che non sono forse oltre un certo limite così necessari come continuamente ci viene detto. Quindi farsi le domande di buon senso sui soldi credo che sia una cosa importante. Il libro cerca di aiutare a farsi questo tipo di domande, e poi se ci si fanno le domande si trovano le risposte. Se uno vuole che i propri risparmi servano all'economia locale, si guarda intorno e scoprirà che ci sono delle banche che più di altre intervengono nell'economia locale. Se non lo scopre, può andare dal suo direttore di banca e chiederglielo. Dopotutto sono soldi nostri, quindi possiamo chiedere come vengano usati in un certo modo. Invitiamo Biggeri, magari provochiamo un po' i nostri ascoltatori con una domanda, vediamo le risposte che ci danno, quella che riterremo più originale, regaleremo magari il libro Il Valore dei Soldi. Traendo proprio spunto dal libro Il Valore dei Soldi, voi che valore date al vostro denaro? Che approccio avete? Magari raccontateci se negli ultimi anni, dopo l'iniziale resistenza, vi siete impegnati un po' di più e avete cercato di ficcare il naso in maniera un po' più approfondita nella quotidianità finanziaria vostra e della vostra famiglia. 800 24 00 24, il numero verde se volete anche per darci queste testimonianze. Intanto ritorniamo alle nostre letture, ai nostri suggerimenti di lettura che arrivano dagli ascoltatori. Gianluigi da Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno, benvenuto. Complimenti alle due grandi signore di Cuore Denari che trattano con leggerezza e profondità argomenti non sempre facili. Grazie Luigi, questo, che bel complimento. Questo come preambolo. Grazie. Letture estive, allora io vivo in provincia di Teramo, però lavoro a Milano, faccio il pendolare tutte le sante settimane. Mamma mia. E però ho allietato questa mia avventura ricorrendo al car sharing. su questo anche scrivendo un libro, ma non voglio farmi pubblicità. Ma no, anzi, lei se la faccia, perché noi tante volte, se lo ricorderà, di questo del car sharing abbiamo parlato con BlaBlaCar e tanti altri soggetti, quindi quando è pronto proprio, il libro... Proprio quello che ha detto, ce lo mandi senz'altro, grazie. Ecco, anche perché sono appunto tecniche in diverse occasioni sono già stati trattati dalle vostre rubriche. L'economia della condivisione. E quindi, assolutamente, sì, assolutamente. Anche perché ho partecipato a vari incontri anche al CFMT di Milano, dove ci sono stati esperti che si sono dibattuti e che hanno approfondito il tema sotto. Quindi scrivere, viaggiare viaggia parecchio, a lettura come stiamo? Siccome appunto la lettura richiede tempo e il tempo ahimè è sempre tiranno, io sto cercando di dedicarmi ad una lettura selettiva attraverso blog, attraverso siti. E per esempio faccio riferimento a LinkedIn, che è una rete professionale che tutti quanti conoscono, per suggerire quello che a mio avviso è un argomento, o quelli che sono due argomenti molto molto attuali, legati anche a quello che voi avete appena, che state trattando questa mattina, vale a dire la gestione dello stress senza cadere in depressione, e l'altra è rimettersi in discussione, che purtroppo io ho 54 anni, magari chi lo sa, il libro non verrà anche preso in considerazione, ma intanto è un modo di rimettersi in discussione. Ah certo, guardi, ma ce ne sono tantissimi altri che con una attenzione selettiva e una ricerca molto attenta, senza farsi trasportare dal mare magnum della rete, possono aiutare a trovare parecchi punti, perché ripeto, anch'io invidio la signora prima che legge 4-5 libri al mese, io non lo faccio più da tanti anni. Però si può riuscire sotto l'ombrellone, con il tablet in mano e le idee un po' chiare, a trovare anche delle buone idee per migliorare la qualità della Grazie vita. Gianluigi, guardi, sul tema del rimettersi in discussione è veramente molto bello e sono certa che Nicoletta sarà d'accordo, magari lo cavalcheremo di nuovo con Cuore Denari a partire dai prossimi mesi, perché questa gravissima crisi economico-finanziaria sta costringendo molti a rimettersi in discussione dal punto di vista professionale, lavorativo e di conseguenza anche emotivo, per cui un sostegno a queste persone che stanno subendo e vivendo questi profondi cambiamenti della propria vita, qualche volta subiti, a volte ricercati, è un aiuto che naturalmente è necessario dare, quindi magari farlo anche con una lettura è assolutamente un'ottima idea. Leonardo Martinelli, volevo ritornare da te ricordando altri film o altri libri che hai preso a spunto per elaborare il tuo libro, quasi un romanzo, L'economia raccontata a chi non la capisce. Per esempio addirittura un film del 63 di Bigas Luna, Uova d'oro. Che cosa c'era di tanto interessante in questo film? In realtà è un film dell'inizio degli anni 90, ed è sì, abbastanza inaspettata come presenza in un libro del genere, quella di Bigas Luna. Sì, perché è un regista che conosciamo, diciamo, per altri tipi di opere cinematografiche, ecco, per cui che si sia anche un po' sbizzarrito con l'economia ci interessa. Sì, in realtà Bigas Luna, che è morto pochi anni fa, aveva studiato economia, poi aveva lasciato quel tipo di studi per altri tipi di studi, per l'architettura, però aveva mantenuto poi per tutta la sua vita una grande passione per l'economia, anche perché una parte della sua famiglia era fatta di imprenditori. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò molto all'agricoltura biologica e creò un'impresa, e questi temi se li portò dietro anche nei suoi film. Questo film, Uova d'oro, è un film che in realtà narra la storia di un semplice muratore che a Benidorm vuole costruire una torre altissima, però appunto diciamo che tutta la vicenda si svolge nello scenario del boom immobiliare spagnolo, che inizia già in quegli anni, molti anni fa, e che poi si è trasformato pochi anni fa in uno boom immobiliare, è stata diciamo la prima causa del tracollo della Spagna. Quindi già allora, già agli inizi degli anni 90, Bigas Luna riusciva a vedere gli eccessi di questo, gli scompensi di questo modello economico. Io devo dire che riguardando quel film mi sono chiesto perché Aznar o Zapatero, invece di ricorrere a questi economisti spagnoli che vedevamo fino a pochi anni fa laureati ad Harvard o nelle migliori università britanniche, non avesse fatto anche riferimento a Bigas Luna o avesse visto forse anche il suo film. Infatti. Senti Leonardo, adesso ti lasciamo, ma raccontaci qual è stato il tuo capitolo, quello a cui ti sei affezionato di più, che ti è piaciuto di più scrivere. Ma ce ne sono vari, guarda, a me è piaciuto tantissimo il film Il maestro di Vigevano, che è un film degli anni 60 che è basato in realtà su un romanzo di Mastronardi, che era uno scrittore che conoscevo solo di nome, che è morto molto presto, tra l'altro sfortunatamente, e sia il libro che il film sono stupendi perché nel 63, io sono nato nel 64, quindi ancora prima di quando io nascessi, ti danno è una storia che si svolge a Vigevano nel pieno del miracolo economico, e ti danno proprio una fotografia della piccola impresa italiana con le sue virtù ma anche con i suoi vizi, piccoli imprenditori molto dinamici ma che non pagano le tasse. Sembrano storie di oggi, ma era anche la storia di un romanzo degli inizi degli anni 60. Grazie a Leonardo Martinelli, grazie a te, buon lavoro, a presto, naturalmente ti riaspettiamo con un altro lavoro così avvincente come questo, perché a me è piaciuto particolarmente. Grazie molte. E grazie anche. A me è piaciuto molto anche il libro di Ugo Biggeri, e devo dirlo, perché tutto il tema della finanza anche quotidiana è molto ben spiegato, e tra l'altro nel suo libro Biggeri lei racconta anche l'attività di questo movimento anglosassone che si chiama Move Your Money, quindi sposta il tuo denaro, muovilo, movimentalo, che ha cercato di far capire ai cittadini quanto sia utile superare l'inerzia a gestire per esempio un conto corrente e spostarlo da un'altra banca. Insomma, non teniamolo lì, anche se magari siamo tanto affezionati al nostro direttore di banca, ma qualche volta non è detto che ci tratti poi così bene. Ma pensiamo a quello che facciamo con i telefoni, in cui cambiamo in continuazione l'operatore a seconda delle offerte. Ecco, il settore bancario, per tanti motivi, ma in realtà oggi è molto più facile farlo, è stato un settore in cui cambiare banca si ereditava quella del padre, e quindi si continuava a utilizzare quella. Credo che sarebbe un segnale importante dimostrare che le persone si preoccupano di come vengono usati i loro soldi, che magari con i loro soldi non si facciano quelle speculazioni che hanno portato alla crisi internazionale. E poi forse anche è un dato di fatto, c'è una storiellina che c'è nel libro, parlo di mio nonno è una persona che ha avuto la fortuna di vivere molto a lungo. Ecco, nel corso della sua vita la figura del direttore di banca è cambiata completamente, dalla persona che sapeva tutto dei soldi di casa, sicuramente più di mia nonna, alla persona che ha venduto a mio nonno dei bond, no? Semplicemente per fare cassa. Si è persa una figura di riferimento. Una volta il direttore di banca era la persona di assoluta fiducia, al pari del prete o del maresciallo dei carabinieri. Non è più così, non è colpa ovviamente dei direttori di banca, è colpa di una finanza che è cambiata notevolmente. Questo vuol dire però che forse il nostro atteggiamento deve cambiare, non più di, diciamo così, passivo, senza farsi troppe domande, ma dobbiamo cominciare a farci delle domande sui nostri soldi. Presidente Biggeri, noi ce le faremo nelle prossime settimane, certo anche magari riposandoci un pochino, però magari a mente un po' più tranquilla, senza essere presi dalle queste giornate che sono sempre così piene e convulse, magari rifletteremo un po' di più su questi temi, anche grazie agli stimoli del suo libro. Grazie e a presto. Presto. Grazie ad Ugo Biggeri, autore del Valore dei Soldi. Adesso andiamo in pausa, poi ci sono Ivo D'Ancona, che ancora una cosina sull'economia e le sue letture ce la voleva raccontare, poi abbiamo un'altra ospite che salutiamo molto volentieri fra un istante, un'altra testimonianza da un amico di Brescia che ha una libreria che si chiama La Fenice, e ci faremo raccontare da Pietro quali sono magari quelle letture che un po' ci aiutano a così leggerci dentro, se vogliamo, un po' di cammino spirituale per coloro che vorranno farlo nelle prossime settimane, naturalmente anche qualche lettura su questo. Cuore e denari. Velocemente chiudiamo la parentesi economica legata alla lettura. Ivo D'Ancona, rapidissimo, che idee ci dà? Buongiorno, allora io telefono da Chiesi. Sì. Dunque, volevo consigliare un libro a fumetti che si chiama Economics, sì, dove c'è praticamente tutta la storia dell'economia raccontata a fumetti, cercando un po' di spiegare i temi dei classici economici di economia, e partendo da Adamo Smith con La ricchezza delle nazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Benissimo. Un altro libro che volevo consigliare è quello sulla febbre dei tulipani. La prima grande bolla speculativa finanziaria. La prima grande bolla speculativa del 1630, è curiosissima, ma perché anche durante la crisi, quando la bolla scoppiò, comunque sia il secolo d'oro olandese riuscì in qualche modo anche a sanare, ad aiutare coloro che erano caduti anche in disgrazia, per cui cercando di recuperare, di calmerare certi prezzi e cercando di far recuperare qualcosa, certo, dei loro capitali. Guardi, con la bolla finanziaria degli ultimi anni, quella immobiliare americana in particolar modo, in molti l'hanno rievocata, quella dei tulipani, per cui io la ringrazio per averci di nuovo ricordato quelle vicende. Per gli appassionati, naturalmente, tutti andranno alla ricerca anche di queste storie. Adesso vi presento la prossima ospite. Ci sono luoghi che racchiudono tutto il mondo, luoghi in cui il coraggio si confronta ogni giorno con la fragilità umana, dove nessuno è immune dal dolore e neanche dall'amore. Questo estratto che avete appena sentito ci porta al terzo libro di oggi. In linea con noi la sua autrice, una grande amica di Cuore e Denari, la dottoressa Maria Giovanna Luini, autrice del Male Dentro. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Eccoci qua, medico responsabile della comunicazione scientifica dello IEO. Allora, Il Male Dentro, io ancora non sono riuscita a leggerlo tutto, ma già questa mattina ero letteralmente divorata dai primi capitoli, naturalmente. Come è nata questa idea di questo libro, dottoressa Luini, e perché secondo lei magari sotto l'ombrellone ce lo dovremmo portare? È nata dalla proposta dell'autore, dell'editore Cairo, che voleva una storia ambientata in ospedale. Allora, visto che io lavoro in un istituto oncologico, ho pensato che si potesse raccontare la vita di un istituto oncologico anche senza indulgere nel racconto solo del dolore. A me piacciono le relazioni, mi piacciono le persone, le ricordo tutte. Ho voluto raccontare la bellezza delle persone. Ecco perché forse Il Male Dentro, nonostante il titolo fosse un po' fuorviante, possa andare anche sotto l'ombrellone, perché si parla di persone, si parla della bellezza incredibile di ciò che si condivide anche quando magari ci si confronta col dolore. Mm-hmm. Senta, scrivere di questi argomenti, adesso a prescindere dalla sua esperienza, sì, è complicato, perché evidentemente non è un romanzo come tutti gli altri, perché appunto lei si è dovuta cimentare, c'è molto di sé nel sé in questo libro, ovviamente. Sì. Raccontare il dolore degli altri. È un po' anche il proprio dolore, perché per raccontare qualcosa, secondo me, a prescindere davvero dall'argomento, bisogna vivere questo qualcosa, bisogna capire cosa si sta dicendo e anche un po' provare quelle emozioni. Non è semplice, perché bisogna anche rispettare le persone, quindi questo è un romanzo e racconta storie che sono, tra virgolette, inventate, ma indubbiamente si basa su un'esperienza di vita, la mia esperienza di medico in un centro oncologico e quindi anche l'esperienza di tutti i miei colleghi, ma soprattutto dei cosiddetti pazienti. A me non piace la parola pazienti. Mm-hmm. Ci vuole rispetto, quindi si racconta, si inventano storie, perché sono storie inventate, ma si hanno in mente anche tanti volti, tanti nomi, tante relazioni, come dicevo prima. La difficoltà, secondo me, sta lì, nel creare una storia senza abusare delle persone, rispettando quelle che sono le esperienze della gente. Mm-hmm. Comunque a me piace molto parlare di persone, quindi credo di esercitare, certo, questo rispetto. Senta, anche se lei lo fa per conto dello IEO, noi qua lo facciamo dalla radio, anche se la comunicazione è un po' il nostro lavoro e l'informazione in qualche modo, non è poi detto che ci si possa automaticamente trasformare in scrittore. Quali sono stati i momenti un po' più complessi nell'esercizio appunto di questo lavoro, dottoressa Luini? Quindi dalla sua attività, magari, non lo so, era piena di idee, poi poterle così trasferire su un foglio bianco è stato semplice? Non è semplice, ci vuole preparazione, nel senso che la mia parte ormai piuttosto nutrita di divulgatore scientifico ha richiesto anche una preparazione, uno studio, insomma. Quindi sono diventata scrittore di narrativa, ma nella parte divulgativa, che secondo me è fondamentale e peraltro voi la fate benissimo da anni, come sapete, come voi mi insegnate, ci vuole anche la preparazione del giornalista. Io ho avuto dei maestri che sono e sono stati giornalisti, Debora e Nicoletta di Cuore Denari, ma lo dico perché lo sanno tutti ormai, sono mie maestre in questo, ho avuto altri maestri nei media cartacei. Bisogna imparare. Essere medico non significa saper divulgare, essere scrittore non significa saper raccontare cose che stanno in ambito medico. Certo. No? Come a volte, per esempio, non è detto che magari un grande giornalista della carta stampata sappia ben cimentarsi davanti a un microfono, per cui in tutte le cose bisogna appunto avere un approccio anche molto umile, se vogliamo. Sì. Dottoressa Luini, io ho il piacere di presentarle, mi piacerebbe, siccome è un mio amico, ma anche una bellissima attività, fa dei percorsi spirituali incredibili, vorrei farle appunto conoscere Pietro, che ci chiama da Brescia, che ha una libreria bellissima e ogni giorno da Facebook, dai suoi blog, insomma, suggerisce tanti libri ai suoi agli avventori della sua libreria, ma in realtà sempre delle idee molto originali. Allora, immaginando che adesso qualcuno sotto l'ombrellone non voglia leggere né romanzi né saggi, ma voglia in realtà un po' pensare a se stesso, al suo stare bene, magari vuole intraprendere un piccolo percorso spirituale, Pietro ci darà qualche suggerimento, poi vediamo dottoressa Luini se lei lo condivide. Pietro, buongiorno. Buongiorno a te Debora, alla dottoressa Luini presente e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, so che già ti cimenterai in letture molto complesse perché i tuoi percorsi sono ormai molto avanzati, no? Ma diciamo che ogni libro riserva una sorpresa e quindi mai escludere nulla. Naturalmente ci sono delle pubblicazioni che sono ritenute, tipo ad esempio quello che mi appresto a portare in vacanza con me, l'autobiografia di Noi Oggi, secondo una ricerca della HarperCollins editrice, tra i 100 titoli spirituali migliori di questo secolo, sono dei capisaldi, nel senso che effettivamente sono da apripista per molte persone che vogliono iniziare a percorrere un percorso di spiritualità, differentemente dalla religione, che secondo me è un'altra cosa. La spiritualità ha la forza di poterti mettere in contatto con te stesso e rinascere un po' dalle ceneri magari di una vita che potrebbe non essere stata soddisfacente pienamente, certo, sì, sei stata dolorosa, certo. Naturalmente la malattia, non so, anche la recessione ad esempio di questi giorni porterà degli scompensi emotivi alle persone. Certo. Diciamo che attraverso queste pubblicazioni abbiamo la possibilità di capire un po' meglio come funzioniamo, che tipo di consigli questi yogi, per esempio l'autobiografia appunto di Noi Oggi di Paramahansa Yogananda narra la sua esperienza fin dai primi anni di vita. Lui vive in India, poi tra l'altro si trasferisce negli Stati Uniti, dove inizia più di 100.000 persone allo yoga, quindi ha proprio una missione da compiere, avvicinare anche i più materialisti, diciamo così, al percorso spirituale, ed egli narra queste sue vicende tra questi yogi, tra questi sciamani, tra questi fakiri, raccontando cose inenarrabili, oseremmo dire, no? Diceva Giovanni nel suo versetto 4,48: se voi non vedete segni e prodigi, voi non credete. Benissimo, Pietro, raccorrere... siccome dobbiamo salutarci, magari dacci un libro, il primo che possiamo velocemente trovare in libreria, che può iniziarci a questi percorsi. Questo va bene. Astrolabio, l'autobiografia di uno yogi, è interessantissimo. Benissimo, fai una cortesia, mettimi subito tutte le indicazioni sul profilo Facebook di Cuore e Denari, così gli ascoltatori possono vederlo. Intanto la dottoressa, grazie, buon lavoro e buone feste. Grazie a voi, invece con la dottoressa Luini ci risentiamo tra qualche minuto, perché rimane con noi e voglio capire qualcosa in più del libro che ha scritto. Ma lì dentro ci incuriosisce molto questa copertina con questi occhiali, con una lente rotta. Che cosa ci raccontano, che cosa ci rappresentano questa ferita? È un titolo che ci invita, che ci respinge. Dottoressa Luini, rimane con noi, ascolta il giornale radio? Certo, certo. Grazie. Cuore e Denari. Eccoci ritrovati insieme, l'ultima puntata in diretta di Cuore Denari, poi anche noi ci prendiamo 2 settimane di pausa, ma avrete modo nelle prossime 2 settimane di riascoltare il meglio di degli ultimi mesi del nostro programma, poi ritorniamo in diretta il 25 agosto. Quest'ultima puntata ci sembrava così carino dedicarla a qualche suggerimento di lettura per voi sui temi preferiti di Cuore e Denari. Allora, stavamo intervistando prima della pausa la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico e responsabile della comunicazione scientifica dello IEO e autrice del libro Il male dentro, edito da Cairo. Stavamo raccontando come è nato questo volume, dottoressa Luini, e soprattutto le avevo chiesto spiegare magari alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che non hanno modo di vederlo come me qui davanti agli occhi, che cosa rappresenta anche questa foto di copertina con questo occhiale, una lente rotta, è un'immagine di dolore, comunque la lente di un occhiale possiamo anche rimetterla a posto. Sì, una lente di occhiale si aggiusta, e anche il male in senso fisico e in senso psichico, in senso spirituale, per ritornare ai suggerimenti bellissimi di lettura di Pietro poco fa, si possono aggiustare, si possono riparare, oppure si può arrivare a un livello diverso. La copertina del male dentro sì, rappresenta un paio di occhiali nel taschino di camice, perché la protagonista Barbara è una chirurga, è una giovane chirurga che va a lavorare per scelta in un centro oncologico, ma probabilmente non è preparata all'impatto del lavoro in un istituto che è un po' un pianeta alieno, perché non è un ospedale generale che già comunque ha tante sue problematiche, è un luogo dove tutte le persone che sono curate hanno avuto un tumore. Ovviamente in questo libro si raccontano tante cose, si raccontano anche le relazioni sentimentali che nascono tra medici, infermieri, insomma si racconta la vita di un ospedale nel suo quotidiano, non si parla solo di malattia o di malattia. Comunque le lenti rotte degli occhiali rappresentano un po' quello che è il nostro tormento, il tormento un po' di tutti, il male che possiamo avere dentro di noi quando assistiamo a determinate realtà che sono difficili. Esatto, dottoressa Luini, allora prima poi la lasciamo andare perché l'abbiamo già trattenuta fin troppo, le ho chiesto per quale motivo dovremmo portarlo sotto l'ombrellone. Specifico ulteriormente la domanda: per chi ha vissuto questa tragedia della propria famiglia, che magari si è conclusa bene ma non può anche essere che non sia successo così, per chi invece con una situazione di cancro non ha mai avuto a che fare, per l'una e per l'altra figura, perché deve leggere questo libro? Ma uso le parole che in realtà ha usato il regista Ferzan Özpetek la settimana scorsa nel presentare questo libro a Lecce. Lui ha detto: il titolo, nonostante sia in sé bello, è molto fuorviante, perché il libro parla di vita e di amore, e parla di speranza, di bellezza di essere vivi. Io non so se questa sia la realtà, perché lo scrittore non può giudicare il proprio libro, non sarebbe giusto farlo, però mi sembra che le reazioni dei lettori siano tutte in questo senso. Si parla di vita e di una forte dose di speranza. Molto bene. Noi le auguriamo intanto buone vacanze. Grazie. Sicuramente, anche a voi. Come lei sa, grazie. Torneremo a disturbarla a settembre, già dalle prime puntate, perché siamo già pronte. Bene, intanto a presto, e noi andiamo adesso alla nostra prossima ascoltatrice, poi vi presento ancora un altro ospite, non abbiamo mica terminato qua. Mariuccia da Varese, quanto legge lei? Oh, Deborah, io sono un po' di tempo che non la sento, prima la sentivo spesso, sono sempre qua. Adesso non ho più tempo perché devo parlare ecco. Di sì. Bene. Io leggo tantissimo, prima cosa per l'insonnia e seconda cosa perché mi piace leggere, e comunque ultimamente ho letto un libro che mi è piaciuto molto, Il senso dell'elefante. Ce l'ho ancora sul tavolo, che lo devo rendere in biblioteca, poi mi è piaciuto anche Notizie di un sequestro di Marquez, e adesso ne sto leggendo uno un po' sentimentale, diciamo, Il giardino degli incontri segreti di Lucinda Riley. Ma che meraviglia! Tra l'altro, Mariuccia, mi ha colpito, tra tutte le cose molto gentili che lei ha detto, lo devo riportare in libreria, ed è la seconda ascoltatrice già che questa mattina ci racconta di come si fruisca ancora delle librerie, e questo ci fa molto piacere, perché addirittura ci sembravano un po' così delle strutture che non avessero più senso, non so, ogni tanto qualcuno dice anche questo, invece sono frequentatissime. Guarda, io le dirò che abito Busto, Busto. La biblioteca di Busto è molto fornita, molto bella, però siccome vado a fare la babysitter dei miei nipoti nei paesini vicino, ho trovato a Gorla Minore, un paesino molto piccolissimo, una biblioteca e le bibliotecarie gentilissime. Ottimo. E di conseguenza, insomma, anche perché con la pensione non è che puoi spendere troppo per i libri. Ma certo. E proprio l'altro giorno ero davanti alla vetrina di una libreria qui a Busto e mi ha colpito appunto il valore dei soldi, tant'è che ho preso nota, e adesso ho preso nota a quello della dottoressa Luini, se non mi sbaglio, e dopo Ferragosto li prenoterò. Mariuccia, senta, facciamo una cosa, noi glielo regaliamo il male dentro di Maria Giovanna Luini, perché Maria Giovanna è una nostra amica, ogni tanto ce ne regala qualcuno affinché noi possiamo darne ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, noi glielo mandiamo perché lei è davvero cara. Grazie. Grazie, Deborah. Grazie molte. Guarda, no, sono anni che la seguo, lei non si ricorda perché ne ha tanti. Però ho imparato tanto anche economicamente sentendo Ottimo. Le vostre trasmissioni. Ogni tanto vado in banca e faccio le mie belle rimostranze. Bravissima, questa proprio ci è piaciuta ancora più di tutte le sue letture. Grazie Mariuccia, a presto naturalmente. Noi adesso andiamo al prossimo libro con questa lettura. Se c'è una cosa che in questi anni ha messo seriamente in crisi la nostra capacità di armonizzare vita e lavoro, doveri e piaceri, affetti e impegni, è la difficoltà di capirsi. Di tutte le prove per la tenuta e la felicità di coppia, comprendere che cosa si agita nella mente del partner è stata la più impegnativa. Non basta sapere come pensano i bambini, come dovrebbero crescere, attraverso quali fasi deve passare il loro sviluppo. Ragionare come una mente sola, essere capaci di fare la scelta giusta insieme all'altro e non contro il suo parere, sintonizzare e sincronizzare le emozioni e i pensieri durante il primo triennio è la più alta montagna da scalare per la coppia. Perché all'improvviso potrebbe succedere che ci sembri di conoscere perfettamente il piccolo, ma di non capire più nulla della persona che ci dorme accanto. Parole sante quelle che adotta nel suo libro il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, ma ormai tutte queste definizioni, dottor Pellai, sono inutili perché i nostri ascoltatori la conoscono benissimo. Ben ritrovato. Ciao Deborah, siamo proprio amici, direi. Esatto, sì. Infatti adesso mi veniva anche da ridere perché mi stavo cimentando con il lei, non ricordandomi che da anni ci diamo del tu, ma stamattina così avevo assunto questo atteggiamento professionale. Nostro amico delle puntate della domenica, ma soprattutto, tanto perché oggi siamo a parlare di consigli per la lettura, autore di questo libro edito da De Agostini per la collana Svolte, Istruzioni solide per una vita liquida, quindi molto carino. I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, il manuale per i genitori ad uso terrestre. Chissà quanti genitori sotto l'ombrellone, invece di correre dietro ai loro bambini che fanno le scorribande in spiaggia, magari potranno ricavarsi qualche minuto di tempo da dedicare a questa lettura. Intanto, a chi precisamente è rivolto questo testo, Alberto? Ma è rivolto a tutti i genitori, a quelli che lo sono diventati negli ultimi 3-4 anni, a quelli che lo stanno per diventare, a quelli che sognano di diventarlo. È proprio un libro pensato per mamma e papà, per una lettura condivisa, è un libro scritto a quattro mani, dove proviamo io e mia moglie a raccontare i 10 episodi cruciali della vita del nostro primo figlio, dal test di gravidanza all'ingresso alla scuola materna. Ci siamo resi conto che gli eventi che nostro figlio viveva erano sempre quelli: il test era quello, l'ingresso alla scuola materna era quello, la sua prima pappa era quella. Per voi ogni volta invece è esperienza diversa. Esatto, il nostro modo di vivere quegli episodi, il mio era un modo molto appunto da marziano, io vengo da Marte essendo un uomo e quello di mia moglie era da Venere, e in moltissimi casi, proprio tra l'altro sia io che mia moglie, insomma, abbiamo un lavoro per cui conosciamo molto bene come funzionano i bambini, ci siamo resi conto che la sfida più grande non era fare la cosa giusta per il nostro bambino, ma prima di tutto trovare un'intesa di coppia, perché avendo una mente comune poi effettivamente il nostro figlio riusciva a stare molto meglio, a funzionare molto bene in ogni sfida. Tra l'altro mi scuso perché presentando il libro ho detto autore di, insieme appunto a tua moglie Barbara Tamborini, che naturalmente salutiamo. Allora, tra l'altro la modalità con cui ce l'hai raccontato, Alberto, è tutto il testo di questo volume mi fa pensare ad un tema che, come dire, un po' è molto ricorrente. Quando arriva un figlio e la coppia un pochino scoppia e qualche volta anche in via definitiva non si riesce a ricomporre questa crisi determinata dall'arrivo di questa terza piccola persona appunto nel menage familiare, credo che la condivisione di esperienza con altre mamme e papà che hanno vissuto la medesima esperienza aiuti. Ma secondo te è facile per un papà che vive la difficoltà magari del respingimento momentaneo della consorte che è tutta presa dal bambino, o al contrario la mamma che vede, vive in maniera un po' convulsa questo arrivo del bebè, vede il marito che invece si allontana, la condivisione con altri nuclei familiari che vivono la medesima situazione è utile a tuo avviso? Ma io dico che hai analizzato molto bene la situazione, secondo me è utilissimo e implicitamente le donne lo sanno fare molto bene, cioè voi avete una notevole competenza emotiva, riconoscete le vostre situazioni di difficoltà e siete sempre pronte a prendere il telefono in mano e magari a confidarvi con una vostra amica, parente, eccetera. Per noi uomini invece è molto molto più complesso. C'è più pudore, un po' più... Ma in generale noi siamo molto capaci di stare nel mondo fuori, cioè noi ci identifichiamo molto col lavoro che facciamo, col ruolo sociale che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita. Le difficoltà relazionali e soprattutto quando sentiamo dentro di noi quel senso di disagio, di inadeguatezza, trasformarlo in parole e soprattutto riuscire a dire quelle parole a qualcun altro è molto complesso, perché cresciamo sempre un po' anche col mito che l'uomo non deve chiedere mai, se è un problema te lo risolvi da solo. Allora, tra l'altro, non ho ricordato che naturalmente anche questi ultimi minuti con Alberto Pellai possono essere allietati dalla vostra presenza in diretta all'800 24 00 24. Se oltre al libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborrini porterete con voi Sotto l'ombrellone o in montagna altre letture dedicate un po' al riconoscimento come dire familiare, a tutto ciò che attiene alla dinamica all'interno della famiglia, al rapporto con i figli, magari raccontateci un po' che cosa avete trovato in libreria che portate con voi e commenteremo insieme ad Alberto la vostra scelta. Stavo guardando Enrica che scrive: se Pellai viene da Marte, figuriamoci gli altri uomini con sensibilità a livello zero. C'è chi ha questa sensibilità a livello zero con l'arrivo del figlio, Alberto? Può capitare anche questo, che non si muova minimamente neanche l'istinto paterno ma anche materno? E in realtà succede, analizzi anche questi aspetti? Ma in generale direi che quando noi entriamo nel territorio della genitorialità, per tutti è proprio un'esperienza incredibile. Per qualcuno è proprio vieni travolto da qualche cosa che è come uno tsunami, ed è bello per esempio sentire uomini che ti raccontano: ero lì, è nato il mio bambino e sono per la prima volta nella mia vita sono stato colto da un pianto incontrollabile. Per molti però entrare in un'emozione così forte è davvero troppo, e quindi scattano immediatamente delle modalità difensive, cioè dei modi di evitamento, di distanziamento da un sentire emotivo troppo forte, proprio perché soprattutto gli uomini sono veramente cresciuti con l'idea che le emozioni devono avere poco spazio nella nostra vita. Noi siamo persone di azione e poco persone di emozione. Siamo proprio cresciuti con l'idea che le emozioni sono una cosa da donne e che gli uomini invece, se pensi anche a quello che fanno magari nella tradizione scolastica di alcuni sistemi scolastici che ti insegnano proprio a non manifestare mai un'emozione, quindi a essere una persona un po' glaciale, certo, dove la parte alta del tuo cervello, quella cognitiva, non permetterà mai a quella emotiva di essere manifestata. Senti, i capitoli che hai scritto appunto sono, aspetta che adesso stavo un po' conteggiando, sono 8 più un paio di appendici. Quello che mi attira di più in questo momento è il numero il numero 8, saper dire di no i capricci, perché così un po' mi stavo facendo suggestionare da quello che potrebbe accadere in questo periodo in località di vacanza. Ne abbiamo parlato anche in trasmissioni della domenica insieme a te, quando magari i bambini un po' rilassati da tutti gli impegni dell'anno così si scatenano, e per i genitori diventa altro che il momento del relax per loro, ma quello del maggiore impegno addirittura. Alberto, ti sei spaventato? No, sai che sono... No. Allora ritorniamo ai nostri bambini che ci scappano dalla spiaggia, non li troviamo e più che farci riposare ci fanno venire un infarto. Insomma, nel tuo libro Papà e Mamme, papà vengono da Marte e mamme da Venere, c'è anche un approccio diverso nella gestione del bambino tra mamma e papà nel momento estivo? Ma direi di sì, un aspetto, quello che citavi tu adesso, cioè il fatto che siamo in ambienti nuovi, occorrono regole che devono essere condivise con i bambini e devono essere sostenute in modo molto preciso, per cui i bambini che devono imparare a comportarsi in modo differente da quello che succede in casa o in città devono proprio essere istruiti bene dai genitori, quindi più perdiamo tempo a raccontarci bene le regole, magari a trasformarle in un gioco, e naturalmente apprezziamo la capacità del nostro bambino di saperle rispettare, più probabilmente avremo meno affanni e meno ansie sotto l'ombrellone. Il secondo aspetto invece è quello del capriccio. Quando il capriccio è uno scontro di potere, spesso diventa una modalità per vedere chi è più forte tra genitore e bambino. Io direi proviamo a trasformare il capriccio in un'occasione di relazione, proprio perché siamo in vacanza, abbiamo molto più tempo a disposizione rispetto a quello che normalmente succede in città o nel tempo feriale. Proviamo proprio a, per esempio, usare la discrezione. Mamma mia, come sei arrabbiato in questo momento, vieni con me che andiamo a vedere una cosa che non ti immagini neanche com'è fatta. Tra l'altro qualche volta io ci provo un po' con i miei nipoti, un approccio di questo tipo li diverte e loro si mettono a ridere subito un po', no? Assolutamente, perché quello che succede è che in molti casi il capriccio, che è una richiesta di attenzione, viene immediatamente corrisposto con un'offerta affettiva e il bambino entra subito in cooperazione con l'adulto, che quindi invece che punirlo o castigarlo lo indirizza verso un'attività esplorativa molto più divertente. Che tenerezza. Alberto, se hai ancora 5 minuti di pazienza, voglio farti salutare il nostro prossimo ospite, poi vi saluto entrambi insieme al termine del programma, ma il prossimo ospite anche in questo caso lo presentiamo con un brano tratto dal suo ultimo libro. E un bacio col labbro convulso t'impressi. E gliel'aveva dato davvero, e poi ancora, e urlando come un ossesso, si era allontanato correndo, tanto che quando Giovenca aveva riaperto gli occhi, il Trionfa non era altro che un puntino nero dentro al coltivo di ravizzone. Per Giovenca quello era stato il primo bacio in assoluto, e aveva sortito su di lei un effetto destabilizzante, mercé anche il sole che aveva ormai soffocato quasi ogni rumore. Quella stessa notte, digiuna e insonne, Giovenca si era ritrovata a considerare l'ipotesi del convento quale unica soluzione. Anche lui è un amico che ci ha seguito in un lungo percorso che abbiamo fatto nei mesi passati con Cuore e Denari, con l'iniziativa Cuore, Denari e Vitali, per cui Andrea Vitali, medico, scrittore, in linea con noi. Andrea, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati voi. Grazie Andrea, abbiamo risentito, abbiamo sfogliato una pagina della premiata ditta Sorelle Ficcadenti, veramente un libro di grandissimo successo, in testa alle classifiche di vendita per tutto l'anno, per cui grandi soddisfazioni per Andrea Vitali, la storia di queste due sorelle, Giovenca e Zemia. Ma Andrea, sei in vacanza adesso? No, mai vacanza, mai. Assolutamente. E no. Allora, in questo periodo in cui molti vanno in vacanza, uno scrittore che cosa legge? Io guarda, mi sto divertendo molto leggendo Il Cardellino di Donna Tartt, eccezionale. Amo molto questi libroni estivi. L'anno scorso ho passato una bella estate con Il Caso Enrique Bear, quest'anno la sto passando con questo romanzo fluviale, immenso, mi piacciono questi romanzoni, mm-hmm. che occupano il tempo estivo. Certo, senti, naturalmente oltre a approfittare delle vacanze estive per leggere i libri che non riusciamo a leggere durante l'anno, magari qualcuno in questo periodo ha anche così la stravagante idea di cimentarsi con la scrittura. L'estate è un periodo che ispira, agevola la scrittura secondo te, oppure tu sei uno che ha bisogno di farlo, che ha bisogno come tutti gli altri di riposarsi in questo momento? La scrittura la porti sempre con te? Assolutamente, sempre con me. La scrittura di per sé già riposa, non stanca assolutamente mai, e quindi non ha stagionalità, estate, autunno, inverno, quando c'è il sole, quando piove. La scrittura fa sempre bene, è vitaminica, per cui hai già in cantiere qualcos'altro per i prossimi mesi? Proprio stamattina ho avviato la revisione del primo capitolo del romanzo nuovo. Benissimo, allora noi ti aspettiamo prossimamente. In quanto tempo credi di ultimarlo? Anche se qua chiaramente sono gli editori che chiedono. Deve uscire a gennaio, per cui quest'estate, parte dell'autunno. Altro che. Intanto noi ci gustiamo, oltre che a tutti i tuoi libri precedenti, sono molti, tutti gustabilissimi, La storia delle sorelle ficcadenti. Andrea, buone vacanze, grazie ancora. Grazie a voi, buon lavoro. Io volevo anche ricordare che per altri consigli di lettura potete ascoltare Il cacciatore di libri sabato alle 6.45 del mattino e alle 22, in replica la domenica alle 14, e anche Romanzi in valigia sabato alle 14. Alberto Pellè, che cosa legge nelle prossime settimane? Ma guarda, mi sono preso un libro di cui mi hanno parlato tutti molto bene, si intitola La mia maledizione di Alessandro De Roma, ambientato in Sardegna. È una storia di relazione di amicizia tra due bambini che diventano ragazze e che poi diventano uomini, molto molto particolare, mi attira molto. Alberto, grazie. Io ricordo ancora, edito da De Agostini, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, il manuale per i genitori ad uso terrestre, scritto a quattro mani da Alberto Pellè e sua moglie Barbara Tamborini. Buone vacanze a te e tutta la tua tribù, Alberto. Grazie a presto. A te, buone vacanze a tutti. Grazie molte. Io ringrazio Laura Vanossi. In questa settimana siamo state sole solette a preparare e condurre Cuore e Denari, ma naturalmente rimaniamo ancora con voi con il meglio delle passate puntate delle settimane scorse, appunto per due settimane. Poi io ritorno con voi il 25 agosto. Grazie anche a Peter Bescapè per l'assistenza tecnica. A tutti buone vacanze, io ritorno stasera alle 17 con Focus Economia. Cuore e Denari.